Dico solo le ore 15. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Ci siamo, regia, buon pomeriggio a tutti voi. Dopo naturalmente la nostra sigla e ci ha preceduto ovviamente Music Peers, salutiamo tutto lo staff appunto di questa trasmissione che ha bellissima puntata. Eh sì, un grande omaggio a Lucio Dalla e poi a Lucio Battisti, era doveroso. Entriamo in quel che è la nostra playlist di Easy Pop, musica indipendente per menti libere. Diamo un'occhiata alle uscite discografiche, insomma, di questa settimana e di ricche novità che, insomma, svolazzano nelle lettere, mi permetta un po' così questa dicitura. Oggi siamo un po' così, mi prendo delle licenze, mi sento molto poeta oggi e non ho ancora preso il cioccolatino. Mi astengo da qualsiasi commento. Bene, bene, bene. Allora, oggi molta carne al fuoco, direi di incominciare a presentare, insomma, il primo partecipante all'interno appunto di questa prima parte, ovvero sia in scaletta abbiamo gli Hand Logic, vero regia? Yes it is. Ok, è un gruppo musicale attivo da un po', se non sbaglio, sì, però loro hanno sempre cantato in inglese, questa volta si cimentano con l'italiano. Voglio ricordarvi che il 10 marzo prossimo saranno ospiti, li potremo vedere qui a Bologna, al Covo, lo diciamo perché, insomma, a quanti piace questo genere musicale sicuramente appunto li sproniamo a partecipare. Hand Logic, appunto, questo nuovo album in italiano, ci presentano Libera. Ah, me lo dice così? Sì, allora, esseri umani perfetti, libera, giusto? È questo il titolo, che è poi è praticamente l'intro a un nuovo album. Facile dire che ho sbagliato, facile dire che ti ho odiato. Perdonaci, amore, ma hai sbocciato. Ora illumina il marcio che c'è stato. Logic, libera, esseri umani perfetti. A lei la parola, Paoletti. Certo, voglio... Grazie, voglio ricordare che saranno già in tunnel il 10 marzo, come già detto, anticipato, a Bologna al Covo, mentre il 17 marzo a Modena al Kalinka Club, 31 marzo a Roma al Palasport, se non sbaglio con i Verdena addirittura, il 6 aprile a Milano all'Arci Bellezza, il 14 aprile Pioggia Rossa Fest, il 4 maggio a Roma al Wishlist e il 5 maggio a Salerno alle Dissonanze. Questo è un progetto sperimentale pop nato a Firenze nel 2016. Sin dall'LP d'esordio questa band si fa un nome nell'underground nazionale grazie alla vittoria soprattutto del rock contest Controradio e poi l'incessante attività live in tutta Italia, e piano piano insomma hanno raggiunto una credibilità e un consenso da parte di chi ascolta appunto la musica underground e poi soprattutto la musica indie, e quindi complimenti a loro, perché in tre album veramente hanno raggiunto una popolarità nell'underground davvero interessante. Prima che Paoletti vada avanti, volevo dare il benvenuto a questa puntata numero 9 di domenica 5 marzo di Easy Pop sulle frequenze di Radio Città Fujiko, sui 103.10 in FM oppure in streaming. Un saluto a tutti coloro che ci ascoltano a Bologna, lungo il viaggio, autostrade, tangenziale, anche fuori Bologna tramite appunto lo streaming. Esattamente, fate un buon viaggio e soprattutto rimanete orecchio alla parecchia ad ascoltare le nostre proposte musicali. La seconda in ordine cronologico abbiamo gli Alchemica, ci presenteranno praticamente nella notte un fiore, una band che è giunta al terzo lavoro, questo è estratto dall'album, si intitola, se non sbaglio, Se il sole muore, quindi ascoltiamoli. Alchemica. Questo sì che lo sento, il suono di Easy Pop, Paoletti, con gli Alchemica e la loro Nella notte un fiore. Eh sì, esattamente così, il singolo che praticamente anticipa l'album appunto che la band licenzia, si intitola Lavoro se, dunque si intitola sì, Lavoro se il sole muore. No, è il terzo lavoro, scusate se il sole muore, mi sono un po' impallato, ma va insomma, da davanti non c'è niente, problema, poi andiamo avanti. E quindi è un concept album questo qui, diviso in tre parti. La prima parte tratta insomma del tema della perdita, dell'angoscia. La seconda parte, attraverso un viaggio interiore, si parla di speranza e di rinascita. Per quanto riguarda l'atto finale, proprio la consapevolezza e la serenità. Un album, si ritorna un po' al suono vero, quello genuino, si ritorna un po' anche così agli anni 70, no? Quando un brano non durava 3 minuti ma durava un po' di più, o comunque si sperimentava molto con diciamo soluzioni musicali azzardate e quanto mai meditative, e mi piace questa cosa appunto del pop anni 70. Sì. E a questo punto direi di voltare pagina e viene a trovarci un personaggio che è ben così particolare. Si chiama Fabio De Vincente e ci presenta Siamo gli stessi, e di lui vi parlo fra pochissimo. Chissà da dove vieni per farmi restare qua, in tutto ciò che è straordinario c'è normalità. Dal primo giorno che ho scoperto come camminare, al mare di problemi che con te affronterò. In ogni errore c'è nascosto un nuovo livido, che guardo con orgoglio per sentirmi libero. E anche se sbaglio non vuol dire che ho sbagliato a farlo, e anche se sbaglio è il nostro sbaglio. Non finisce un secondo senza che non scazziamo, siamo sempre gli stessi e non tanto diversi. Ma che cosa facciamo? E il finale è sbagliato, ma che cosa ti inventi? Siamo sempre gli stessi. Non è la vita che credevi, ma puoi scegliere tra l'anteprima di un futuro che non fa per te, o stare insieme e fare solo passi da gigante, con il coraggio tra le mani si è imprendibili. In ogni uomo c'è un eroe che sa combattere, con il sorriso, coi contrasti, con le lacrime. E anche se sbagli non vuol dire che è sbagliato a farlo, e anche se sbagli è il nostro sbaglio. Non finisce un secondo senza che non scazziamo, siamo sempre gli stessi e non tanto diversi. Ma che cosa facciamo? E il finale è sbagliato, ma che cosa ti inventi? Siamo sempre gli stessi. Non finisce un secondo senza che poi scoppiamo, siamo sempre gli stessi e non tanto diversi. Ma che cosa facciamo? E il finale è sbagliato, ma che cosa ti inventi? Come ci siamo permessi? Non c'è niente di meglio che sentirsi meglio, non c'è niente di meglio che provarci lo stesso. Non c'è niente di meglio di sentirsi meglio, di svegliarsi dentro un giorno nuovo, ogni giorno un giorno nuovo. E questo ragazzo entra per 2 anni consecutivi, nel 2014 e nel 2015, tra i finalisti del Festival di Sanremo Nuove Proposte. Poi non ce la fa, ma nel 2016 entra The Voice of Italy. 2016 esordio al pianoforte con Say Something, entra di diritto nel team Dolce Nera, nonostante che sia Max Pezzali, sia Raffaella Carrà ed Emin Schilla lo avrebbero voluto fra le loro squadre. E via via insomma diverse esperienze diciamo musicali e non solo, diversi singoli che balzano nella classifica indie. Devo dire che per lui insomma comincia a muoversi veramente qualcosa, e quindi il suo talento viene messo in luce. E quindi che dire, che glielo dico io, se sono rose fioriranno. Sì, Fabio De Vincente abbiamo ascoltato. Non è che aspettavo, io direi però di ascoltare un po' attentamente questo Fabio De Vincente, che ha insomma delle lusinghiere valutazioni fra i giornali musicali. Quindi poi tra l'altro, se non sbaglio, ha anche uno zio che insomma è nell'ambiente musicale discografico ad alto livello, quindi in bocca al lupo a lui, diciamo così. Bene, a questo punto Paolo. Regia, che cosa abbiamo? A questo punto abbiamo Elena e Francesco Faggi con Nothing Can Blow Me Out. Not afraid of the passing time, I will find a way to touch the sky. And I'll do it for you, and I'll do it for me too. Nothing can change my mind, I don't give it up if I'm wrong tonight. I will go on and on and on and on. I still believe and I will never stop. My destiny says show me what you got. I wanna follow the road to my dream, to my soul. I'm a flame in the snow and nothing can blow me out. I just wanna feel it's my way. And I do it for you, and I do it for me too. All I know is even if I fall apart, I will go on and on and on. I still believe and I will never stop. My destiny says show me what you got. I wanna follow the road to my dream, to my soul. I'm a flame in the snow and nothing can blow me. Fabio, no, Elena e Francesco Faggi, Nothing Can Blow Me Out, ma questo entra subito nella mia compilation dance della prossima estate, che è quasi imminente, siamo già a marzo. Ah, già pensiamo all'estate, ma va bene. Mi devo preparare. Non abbiamo ancora consumato Sanremo, che già pensa all'estate, già al Festival Bar, quello che era l'ex Festival Bar, fa già la compilation come si usava a fare. Va bene. Elena Faggi, Francesco Faggi, sono fratelli con la stessa passione per la musica e per le arti performative, quindi in tutto campo, dal songwriter alla musica e alla danza, insomma, performer completo. Francesco inoltre è compositore e addirittura arrangiatore e producer del progetto musicale che stanno percorrendo sia lui che la sorella. Nel 2021 ha visto sul palco Teatro Ariston del 71esimo Festival di Sanremo, diretti niente poco di meno che dal maestro Beppe Vessicchio. Io mi alzo in piedi quando dite Beppe Tanto Vessicchio. Nessuno la vede. Va bene, dove Elena era tra le nuove proposte con la canzone Che ne so. Francesco era appunto in qualità di arrangiatore e producer al Festival di Sanremo e l'accompagnava al pianoforte. Elena insomma è arrivata all'Ariston dopo la vittoria ad Area Sanremo Team 2020 e la successiva selezione a Sanremo Giovani, che non è poco, insomma. Tra i finalisti appunto presentava il brano Jim Carrey. Il brano Che ne so insomma è stato premiato da Casa Sanremo e ha vinto anche il premio Soundies Awards 2021 come miglior videoclip di Sanremo, e poi da lì insomma sono partiti. A febbraio 2021 hanno conquistato invece la finalissima per Una voce per San Marino Contest, che poi è praticamente il biglietto da staccare per andare dove? Per andare dove? All'Euro Song Contest. Ah. Quindi io adesso non lo so chi ha vinto e chi andrà appunto al festival appunto in qualità di delegato per San Marino, però sappiate che insomma si sono candidati pure loro. Quindi un nome insomma che si fa sentire, un nome che comincia a farsi pesante. Complimenti a loro, e che dire, che a questo punto noi voltiamo pagina e andiamo avanti con la prossima. Mi aiuta lei, certo, adesso? Adesso abbiamo Magratea con The Castle. I eccoli qua. Allora, si chiamano Magratea con The Castle. The Castle. Che praticamente non è una ragazza quanto uno possa pensare, invece è proprio un gruppo che praticamente si è ben distinto con un EP che praticamente si intitola Momentum. E loro fanno, dicono nelle dichiarazioni, praticamente un rock, anzi una ricerca musicale nel vero senso della parola. È un disco, insomma, che unisce sonorità un po' post rock, atmosfere space e ambient, in questa produzione che è molto sperimentale, molto ambient, appunto, sì. Molto ambient, ci siamo resi conto. A me ricordava un po' la musica epica alla Valley Door, si usava molto negli anni 80 queste cose, non dico spaziali, ma molto languide, no? Molto particolari, di espansione del proprio io, come si dice, queste cose new age, mi aiuti lei. La ricerca di se stessi dentro, vabbè, non so, con queste musiche, insomma, che viaggi, insomma, sì, questa specie di space ambient e così via. Va bene, complimenti a loro, devo dire, ci hanno conquistati con questo suono che veramente non si ascoltava da un po', molto bello, molto molto bello e molto anni 80, perché in qualche modo mi ha ricordato anche certe sonorità da Simple Minds. Bene, a questo punto Riva al mare si intitola così, vero, regia? Sì, esatto. Alla prossima con Shreddy featuring Wairoshi, e spero di aver pronunciato, sì, degnamente, perfetto. Riva al mare, questo è il titolo di questo pezzo e poi ve ne parlo. Se ti dovesse capitare di pensarmi, promettimi solamente il ricordo migliore, poi balla come se fare solo tu. So che riesci a stare zitta anche per ore, ti senti fuori contesto e non parli di te, mai lo fanno i tuoi occhi celesti. E adesso dillo a te stessa che questa gente non conta niente. E adesso dillo a te stessa, sarò un segno sulla tua pelle. E non importa, starò bene, raccolgo pezzi di me in riva al mare. E ti prometto, sarò breve, sì o no. Sapresti smuovere levere, scambiare regole, invertire epoche. Puoi farlo per noi, soltanto per noi, adesso che vuoi. Potrei anche starmene immobile, guardarti scorrere, andarmene oggi per rinascere poi, morire dai. Ricordo sberle formative, carezze molto più aggressive, mani di fata, falsi più taglienti, di 100 lame in fila, per me sarà un quadro di Fontana, rabbia repressa ma spontanea, fatta di eccessi, nuvole dense, grandi silenzi, nottate intense, ho riso di voi però sbagliavo proprio concezione, che mi serva di lezione, a forza di credervi pazzi ho capito che andiamo nella stessa direzione, cambia l'intenzione ma non la visione, silenzioso come l'ambizione, trasforma le rabbie in motivazione, ogni vibrazione sarà ispirazione. Strayed featuring Wairoshi, Riva al mare. È proprio così, la canzone impreziosita ovviamente dal featuring di Wairoshi, rapper e cantautore fiorentino che grazie alle sue rime riesce a portare così il pezzo verso sfumature ancora più diverse di questo singolo che si chiama Riva al mare. Il videoclip è realizzato da Tommaso Checchi, descrive l'emotività del brano ponendo l'accento sulle espressioni e lo stato d'animo appunto degli artisti intenti a raccontare la storia della canzone che abbiamo ora ascoltato. Lui praticamente arriva appunto con un nuovo nome, perché si chiama in realtà Marcello Stride, Stride per gli amici. Lui nasce principalmente come chitarrista, ma negli anni ha avuto la voglia di mettersi alla prova e spingersi oltre appunto alla chitarra. Nel 2022 esce il suo EP che si intitola appunto Fantasmi, e questo è il nuovo estratto che abbiamo ora ascoltato. Ma voi mi direte, com'è che lei sa sempre tutto? Un po' a studiare, un po' a guardare. Io anche mi avvalgo del dizionario cantautori e cantautrici del nuovo millennio, dizionario appunto scritto da Michele Neri, che vado a salutare, che insomma ha fatto un bel lavoro, e per quanti vogliano immergersi nel cantautorato, dove ci si perde veramente, questi nuovi artisti che vanno, vengono, ritornano. Per sapere di più appunto c'è questo valido aiuto per supporto così, cartaceo, mamma mia se serve, perché così ci si ricorda di più, si memorizza, perché veramente sono tantissimi bravissimi i nuovi cantautori che magari non li vediamo in TV, perché poi per chi guarda, vecchi come noi guardiamo la TV, oppure ascoltiamo, per lei, o ascoltiamo la radio, ma le radio nazionali, e poi c'è anche dell'altro, e ci sono i nuovi canali, vero regia? Certo, il tempo è tiranno, dobbiamo andare con il brano numero 7 di questa puntata, numero 9 sì, di domenica 5 marzo. Allora, un grande che ritorna, abbiamo Papik and Mario Biondi con All Woman. Home again from another day. She smiles at him as he walks through the door. She wonders if it will be okay. It's hard for her when he doesn't respond. He says, baby, you look a mess. In that dress, it's just not like it used to be. Then she says, may not be a lady, but I'm a woman. From Monday to Sunday, I work harder than you know. I'm not fussing, lady, but I'm a woman. Woman needs a little love to make her strong. You're not the only one. Yeah. She stands there and lets the tears flow. Tears that she's been holding back so long. She wonders where did all the love and go. The love that used to share when they were strong. She says, yes, I look a mess, but I don't love you any less. Though you always thought enough of me to always be impressed. May not be a lady, my fingers to the bone. I'm not flashing, baby. Eccoci qua, interessantissimo questo brano, soprattutto interessantissimo anche la voce inconfondibile di Mario Biondi, che dà come dire un tocco in più sicuramente a questo pezzo, che è molto come si dice, Monte Carlo Nights, fa molto Monte Carlo Nights, vero? Monte Carlo Nights, molto, certo, molto. Che dire, che ha dato una mano, un aiuto a Papik in questo che si chiama poi All Woman, il pezzo che siamo andati ad ascoltare, di qui in poi andremo ad ascoltare, ed è uscito proprio per la festa della donna che arriva infine a breve, quindi questo 4 giorni, esatto. Papik, lo ricordo, è un progetto musicale nato da un'idea del produttore e compositore romano Nerio Poggi, che spazia tra il pop, il new jazz, la bossa nova e il new soul, e ha collaborato appunto, hanno voluto

bravissimo cantautore. È una vita che gli dicono, è una vita che lo dicono. Bravissimo cantautore, bravissimo cantautore, profondissimo cantautore. Sono anni che gli dicono e ripetono, lo dicono. Bravissimo cantautore. La storia è diversa, ve la racconto io, e resterò fedele ai fatti. Niente fantasie, ho presunte tali fatti, veri accaduti reali. Ha bussato alle porte dei signori della musica, ha cercato mille scuse che potessero convincerli a riceverlo, per poi sentirsi dire: sei forte, ma adesso c'è altro da fare. Gli artisti, bilanci, un sacco di problemi. Ragazzo, ritenta, sarai più fortunato. Di rabbia accecato, con l'ansia di concludere. E tutti sottofondo continuavano a ripetere: bravissimo cantautore, bravissimo cantautore. È una vita che gli dicono, è una vita che lo dicono. Bravissimo cantautore, bravissimo cantautore, profondissimo cantautore. Sono anni che gli dicono e ripetono, lo dicono. Bravissimo cantautore. La sua vita è una vita come tante ne hai già viste. C'è chi prende strade, le strade sono piste. Dalle biglie sulla sabbia alle soglie della rabbia. È così che si impara a scrivere per vivere. Il sogno si trasforma in ossessione, come un suono dolce che va in distorsione. Dietro a quella scrivania, parole a litania. Dicevate che bastava un'emozione. E gli artisti, i bilanci, in fondo è sempre un rischio. Se fosse per noi sareste il quinto disco. Riunioni inconciliabili con l'ansia di concludere. Tra pacche sulle spalle che si danno solamente ad un bravissimo cantautore. Bravissimo cantautore, è una vita che gli dicono, è una vita che lo dicono. Bravissimo cantautore, bravissimo cantautore, profondissimo cantautore. Sono anni che gli dicono e di strascico ripetono. Bravissimo cantautore. Entra i testi, mettici della sostanza. Cantautore, canta storie, carta canta. Se la voglia di provarci è sacrosanta, tu lo smettere anche a costo di essere l'unico a cantartela. Alla fine se va tutto alla rovescio, sappi che non sarà stato tempo perso. Se ti senti incatenato in mare aperto, lascia che ti dicano, lascia che lo dicano. Tanto come Mimo, diranno al massimo. Bravissimo cantautore, bravissimo cantautore. Marco Baroni, bravissimo cantautore. Beh, un piccolo giacusa del mondo musicale. Esatto. Un po' tutti i suoi limiti. Esatto, perché lui insomma adesso sta un po' dietro le quinte, nel senso che scrive per altri, tra cui Neck, insomma, sì, è sempre nel mondo musicale, ma forse non più così in primo piano, ma del resto, insomma, come dire, certi treni passano, vanno e poi ti portano magari dove non pensavi mai, però insomma male Marco Baroni, da non confondersi con Alex Baroni, quello era un altro, ci ha presentato bravissimo cantautore. A questo punto ne troviamo un altro, ovvero sia Alex Banelli, che ci presenta Ti aspetterò per sempre. E quindi l'ascoltiamo. C'è un featuring qui, D-E-K-A. Ora che tutto cambia intorno a noi, mi accorgo solo adesso del tempo che non ti ho dedicato. Sfogliando le pagine di un libro ho trovato una foto che racconta chi eravamo, quella dove tutto era perfetto. Sento mancare ossigeno ai miei passi, amare lacrime che cadono pesanti come sassi. Sentirsi come un poker senza assi, fa rumore il tuo ricordo, è forte come un terremoto. Ma puntando gli occhi al cielo, so che in questo mio cammino mi starai sempre vicino. Ora che è tardi non si torna indietro, resto chiuso in questo fragile silenzio. È freddo come l'inverno, mi sento perso. E vorrei tornare indietro, anche solo per un momento. E poi fermare il tempo per dirti tutto quello che non ti ho mai detto. E tornare a quelle sere per sentirmi avvolto ancora dentro il tuo abbraccio. Ma io sono qui, ti aspetterò per sempre. Che cosa resta tra le mani? Frammenti di ricordi che sono lontani. Sarà un soffio di vento a portarti il mio messaggio, per ritrovare il coraggio sulle note di una canzone, per rivederci io e te dentro un solo raggio di sole. Il nostro amore sarà oltre ogni confine. E vorrei tornare indietro, anche solo per un momento. Mi ha conquistato la voce di questo ragazzone, Alex Banelli, ti aspetterò per sempre. Lui è di Arezzo, ha già partecipato a Casa Sanremo e che dire, che insomma mi piace, devo dire, è un personaggio semplice però che sa anche bucare lo schermo e poi ha diciamo questa quest'aurea proprio di giovane, come dire, acqua e sapone, insomma gli siamo veramente vicino perché su di lui c'è un primo EP uscito prima della pandemia, davvero interessante, e via via insomma si sta aprendo delle nuove strade molto interessanti, una voce davvero interessante e inconfondibile a mio avviso, quindi lo sponsorizziamo volentieri, Alex Banelli, ti aspetterò per sempre. E poi cosa dire? Abbiamo adesso la prossima. Lanciamo il branco con Barracuda, il branco Barracuda, pardon. Basta. Con Basta. Il pigiama di Winnie the Pooh, quattro coperte e l'ombretto blu. Guardo il balletto delle veline, tanto lo so che non ti va giù. Musica, musica, musica, musica, ma che musica è? Tanto lo sai che non mi arrapano questi duetti con la Bertè. E basta questo reggae pop, mettimi il blasco che ti strappo i vestiti. E basta questo trapper rap, mettimi il blasco che ti mangi i vestiti. Conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che banalità. Musica, musica, musica, musica, ma che musica è? Tanto lo sai che non mi arrapano questi due. E basta questo reggae pop, mettimi il blasco che ti strappo i vestiti. E basta questo trapper rap, mettimi il blasco che ti mangi i vestiti. Se balli, ma cosa balli, che poi diventi botta sudata. E tu balli, ma cosa balli, sei tu mi smaglietta bagnata. Eccoli qua, una band molto simpatica, molto ironica, un po' su stile, mi sembra un po' direttore quando era con questi doppi sensi, queste ironie nella società. Devo dire, loro hanno azzeccato con questo Basta, una band molto ironica che nasce sul finire del 2014 a Brescia, fondata da Claudio Romanini, con l'intento di proporre brani inediti in italiano di genere pop rock molto scanzonato, e nel 2016 infatti vede alla luce il loro primo disco autoprodotto dal titolo Biodiversità, e poi da là è tutta un crescendo con piccole etichette. Nel 2018 esce il secondo singolo Scandaloso della band bresciana, e poi via via insomma hanno raggiunto traguardi molto interessanti anche dai bei video, quindi una band da tenere sott'occhio, come ce ne sono tante adesso, no? Sono esplose dai Pinguini Tattici a da altri, insomma, vero regia? Dopo Pinguini Tattici chi ci sono? E lo Stato Sociale, insomma, cioè, queste band così fanno anche bene ogni tanto, e che poi fanno benissimo, sono un toccasana perché uno si sfoga, mette questi ricambio pezzi e così via. Bene, regia, cosa abbiamo adesso? Ah, cosa mi fa dire, dopo il branco Barracuda e Basta adesso abbiamo Alessandro Spina con un bel brano, in particolare il titolo Incredibili Sterpaglie. andiamo a fare un giro, fino all'ultimo respiro, scopriamo un po' di cose, con la luce si vedrà, guardando attentamente, un passo dopo l'altro, scovando in ogni luogo, incredibili serpaglie, serpaglie, serpaglie, serpaglie, serpaglie, serpaglie, che onore, incredibili serpaglie, serpaglie, serpaglie. Serpaglie, serpaglie, che onor, incredibili, incredibili, incredibili, incredibili, incredibili, incredibili, incredibili, incredibili, serpaglie, serpaglie, serpaglie, serpaglie, serpaglie, che onor. Girando in bicicletta, ti trovi in carreggiata, posizionata a destra, facendo circolare, trovando tante erbacce nel cammin di nostra vita, sparando una bestemmia, incredibili serpaglie, serpaglie, serpaglie, serpaglie, serpaglie, serpaglie, che onor, incredibili serpaglie, serpaglie, serpaglie, serpaglie, serpaglie, che onor, incredibili, incredibili, incredibili, incredibili, incredibili, incredibili, incredibili, incredibili, serpaglie, serpaglie, serpaglie, serpaglie, serpaglie, che onor. Esplorando la natura, in vado il marciapiede, ricoperto in pochi mesi, ma allora che si fa? Oltre c'è spugliatore, ti devi fare onore, tagliando tutto quello che non va. Incredibili serpaglie, serpaglie, serpaglie, serpaglie, serpaglie, serpaglie, che onore. Incredibili serpaglie, serpaglie, serpaglie, serpaglie, serpaglie, che onore. Incredibili, incredibili, incredibili, incredibili, incredibili, incredibili, incredibili, incredibili, serpaglie, serpaglie, serpaglie, serpaglie, serpaglie, che onore. Un brano ipnotico, molto, qui Alessandro Spina, le sue incredibili sterpaglie. Allora, oltre che ironico e quant'altro, c'è l'aspetto poi dall'altra parte politico, in cui praticamente l'autore si mette un po' così a fare un jacuzzi. Non oso pensare cosa siano le incredibili sterpaglie, non voglio neanche pensare. Va bene, però insomma, vabbè, devo spiegarlo. Vabbè, è un jacuzzi sulla politica, diciamo. Questo. Devo dire molto molto divertente, non nuovo a queste, a questi jacuzzi, a queste canzoni ironiche. Devo dire che ce n'era una giusto per Natale sul Festival di Star, sul Natale. A questo punto mi chiedo io, per il Festival di Sanremo non c'è niente? Peccato davvero, però questo lo suggeriamo, adesso lo suggeriamo sicuramente. Alessandro, complimenti, ci è piaciuto molto, e a questo punto direi di proseguire, regia, con che cosa? Adesso viene a trovarci, come direbbe lei, Iana con Maledetto. Ascoltiamo. Ora lo sento, così lontano da me, sei maledetto, non siamo uguali, bebè, anche se poi fingi, so che così sei cambiato e forse tardi, io di te non ho bisogno, sei maledetto. Sei fanatico di questo movimento, il cuore pulsa, sembra vada a tempo, gli piace quando scendo, gli piace farlo lento, fuckboy, mi fa sudare più del gym, guidami come un'auto fino a Medellin, i vetri che si appannano come in un film, poi mi gira la testa, ora lo sento, così lontano da me. Perché ora tu vuoi farti eccoci qua, molto molto interessante questa voce. Lei praticamente ha già esperienze interessanti nel mondo musicale e poi ha lavorato, se non sbaglio, aprendo così i concerti di artisti big tra i quali Shiva, Tony F, Gepegno, Lazza e Geolifier, tra i tanti insomma artisti con cui lei ha collaborato. E devo dire che arriva dopo una gavetta e dopo aver imparato poi a comporre i suoi brani. Una cantante italiana nata a Nuoro nel 1990 e scopre la sua passione per la musica già da giovanissima, all'età di 6 anni, e poi inizia subito a esibirsi fino insomma al suo trasferimento in America Latina per poi rientrare poi appunto in Italia. Questo è quanto ci racconta la biografia di Iana. A questo punto direi di andare con la prossima. Direi di ricordare anche per coloro che si fossero messi all'ascolto in questo momento sull'etere, sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.10, che sono all'ascolto di Easy Pop. Chi vi parla il Bolognese Volante. E al di là del Franco c'è Franco, sì. Paoletti, ovviamente, al di là del vetro. Paoletti. 33 180 94 per i vostri short message. A questo punto corriamo avanti come un treno per la prossima. Ad appannaggio di Masi Opera ci presenta Nuova Era. Opera, Nuova Era. È così, infatti il progetto embrionale parte nel 2016, ma si realizza soprattutto ora con Nuova Era, il singolo di debutto ufficiale dei Masi Opera, che non è un semplice singolo ma un vero e proprio poster per quanto riguarda la band, che così si fa sentire, si fa conoscere. Missione del gruppo per il momento è quello di raccontare il mondo dal punto di vista dei ventenni, e questo insomma è bello, e devo dire anche a noi è un punto di vista diverso e ci fa anche ben sperare. Noi diversamente giovani bene, e noi diversamente giovani ne capiremmo un po' di più. Bene, velocemente andiamo con la prossima regia. Lei allora, qua vedo sì. Già una lingua estera, quindi... Sì, allora qui abbiamo un mix che è stato fatto dal Bolognese Volante, sì. Perché fra i brani indie che abbiamo trovato questa settimana abbiamo Thousand Years Between, che propongono Crying at the Discotheque, rifatto, una cover, Quindi abbiamo mixato gli Alcatraz con gli originali Crying at the Disco, che a sua volta richiama She'll and Be Devotion con A Spacer, un brano del 1979, quindi un disco vintage, tutto insieme in un purpurì. In tre minuti, tre versioni diverse. Bene, ascoltiamole. Note di She'll and Be Devotion e la sua Espacer. Ringraziamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, speriamo di avervi fatto trascorrere un'oretta spensierata. Vi diamo appuntamento domenica prossima, stessa ora, stesse frequenze. Vi lasciamo la programmazione di Radio Città Fujiko, che prevede le corrispondenze di Dani Coraucci alle 16.30 e alle 17. La trasmissione C'era una volta al West di Amalia Picella oggi proporrà uno special su Lucio Dalla di cinema. Vi ricordiamo, se volete scriverci potete farlo con un'email a easypop@tiscali.it ed infine, se volete riascoltare la puntata o le puntate precedenti, potete andare sul sito della radio www.radiocittafujiko.it, cliccare sulla cartella musica playlist e troverete i podcast di tutte le puntate. Ed è proprio così, a questo punto Franco Paoletti si congeda da voi, vi dà l'appuntamento ovviamente fra 7 giorni, stesse frequenze, stesso orario. Che dire, insomma, anche il nostro bolognese deve congedarsi ormai. Assolutamente. Ahimè. Buona domenica e buona settimana. Ed è così tutto per oggi. Ciao ciao da Franco Paoletti e dal Bolognese Volante.